povera piccola mia, non dovevo mai lasciarti sola. Povera piccola piangi, e per colpa mia, soltanto mia, non dovevo abbandonarti mai. Troppo piccole sono le tue mani in un mondo grande, tanto grande. Troppo lunghi i tuoi capelli biondi, il dolore te li spezzerà. Povera piccola mia, non dovevo mai lasciarti sola. Bastò lasciarti sola un po', volevano rubarti a me la porta della vita mia, è aperta solamente. Per colpa mia, soltanto mia, non dovevo abbandonarti mai.